Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. In Italia c'è il nord, c'è il sud e poi c'è Napoli. Una città che è un mondo a parte, un mondo unico, uguale a nessun altro posto della terra. Napoli è il luogo della contraddizione, del bianco o nero, o come dice Totò, di miseria e nobiltà. Non ci sono mezze misure, o la odi o la ami. Sta Napoli vicino di Sirine, che giù a guardarne, giù a volerne bene, viate che sarà sana di indebito, a porta di dopo, che già fa. Napoli si come zucchero, terra adorabile che rarità, zucchero d'amore e femmine, io cuore Napoli che può cantare. Napoli terra d'amore, sente sto cuore che devo dire, zucchero d'amore e femmine, chi è nato a Napoli ci può morire. Le piazze imponenti, ricordi intatti di un passato glorioso, sorprendono e lasciano senza fiato quando si esce da un quartiere di vicoli stretti e bui che fanno pensare a un'intricata medina araba. È lì, davanti ai bassi, le case che danno direttamente sulla strada, che i bambini giocano a pallone sotto i fili tirati con i panni stesi. Al collo hanno ancora la sciarpa di Maradona. Los napolitanos saben bien que el que le hizo el equipo al Napoli para ganar todo fui yo. Il Vesuvio domina prepotentemente il golfo e forgia il carattere delle persone che nell'accettare che da un momento all'altro si possa risvegliare dal suo sonno hanno imparato a vivere alla giornata, trovando così, senza pensarci troppo, la chiave della felicità. Io spero che tutti voi ricordiate quella pagina bellissima di Curzio Bonaparte, Nella pelle, in cui personalizza il Vesuvio e dice la trava come un cane, non so se vi ricordate, no? Quella frase, e finisce quella sua pagina dicendo pietà, pietà anche per lui, no? I canti popolari e la tradizione si mescolano a un fertile movimento creativo underground che guarda l'Europa. E il forte senso della religiosità, racchiuso in chiese tra le più belle al mondo, cammina mano nella mano con la superstizione, nei cornini che si vendono per strada, nei riti pagani sepolti nei secoli da quelli ufficiali, nella smorfia e nel presepe, che i maestri come Lello Scuotto si tramandano da una generazione all'altra. Il presepe napoletano nasce con San Francesco d'Assisi, cioè la volontà di rappresentare la natività in forma plastica attraverso delle statue lignee. A Napoli c'è un'evoluzione straordinaria del Settecento, quando invece si vuole considerare la scena sacra e impaginarla insomma intorno alla vita di tutti i giorni. Piuttosto diciamo insolito, perché la sacralità della scena della Sacra Famiglia viene un po' attorniata da tutto quello che invece è la profanità della vita di tutti i giorni. Napoli è viva, aperta, tollerante, abituata alla contaminazione. La sua gente è il frutto di secoli di dominazioni diverse, che hanno le loro tracce nell'arte, nell'architettura e nei volti. Perfino il modo di gesticolare ampio nasce dall'esigenza di comprendersi tra lingue diverse, e non è un caso se qui, seguendo le orme di Edoardo De Filippo, tutti possono scoprirsi un po' attori. Napoli era un paese curioso, era un teatro antico, senza pire. Ce nasce gente che senza concerti scende per strada e sa per recitare. Non è che lo fanno apposta, ma per loro un panorama e una scenografia. O poco è una bella compagnia d'elettricista e Dio che fa la mano. Girano guaiata tutto quanto, se ne è spartito terra, uomini e denaro, ripossidente barone industriale, se ne è spartito terra, uomini e denaro, e ne abbiamo fatto tutto quanto sacra mare. Sud, ma brucia fronte, più bella caccia di somme, ma brucia fronte, sud, ma brucia fronte, più bella caccia di somme, ma brucia fronte. Il teatro crea una fortissima identità e il discorso vale in particolare per la teatralità napoletana. Forte, irruenta, colorata, grintosa, sopra le righe, intensissima. Soprattutto una sintesi tra le più raffinate tra tragico e comico. A partire da Totò per arrivare a Massimo Troisi. Vorrei approfittare del fatto che questo sketch è trasmesso in Eurovisione per mandare un saluto a tutti i lavoratori all'estero, un saluto, in particolar modo ai napoletani all'estero, essendo la smorfia napoletana, ai napoletani e vorrei rassicurarli sulle condizioni di Napoli. Chi stanno all'estero non sanno a Napoli come si sa, circolano tante voci, Napoli, invece no, stiamo benissimo. Vorrei dire a tutti i napoletani all'estero che stiamo bene. A Napoli tutto industria, commercio, tutto florido, mai come questa volta, stiamo andando veramente bene. Finito l'Eurovisione, siamo tra di noi. Noi a Napoli stiamo guaiati. I problemi di Napoli sono sotto gli occhi del mondo, ma anche questo ne fa il luogo splendido e sofferente che è, segnato nel profondo da mille contraddizioni che lo rendono magico. Un vero e proprio palcoscenico su cui tutti sono chiamati a esibirsi. E ad Afragola, una città di circa 70.000 abitanti, a pochissimi chilometri dal capoluogo, nasce nel 1959 un bambino che del recitare farà il suo mestiere. È uno dei più grandi ed acclamati attori italiani. Il suo nome è Tony Servillo. Tony Servillo. Servillo viene dal teatro, ha un cotè intransigente, intellettuale. Ma se Tony non ha lo snobismo tipico di chi è sempre stato in contatto con la cultura alta, questo succede per via della sua storia. Dopo la scuola, è abituato a prendere il pallone e a scendere a giocare con gli altri bambini per strada. Suona i campanelli e scappa. Si diverte a fare dispetti ai grandi, sfida gli adulti che lo sgridano. Fin da piccolo, respira la spettacolarità della vita e non ci mette molto a rendersi conto che a Napoli, da ragazzini, si può cavalcare l'onda della ricerca del sensazionale per riuscire ad attirare l'attenzione su di sé. La sua famiglia piccolo borghese non ha nulla a che vedere con il teatro. Non c'è una tradizione in casa, nessuno che ha fatto l'attore. Per comunicare si parla in dialetto. Eppure, come in molte famiglie napoletane, l'argomento principale non è né lo sport né il lavoro, è lo spettacolo. Gli zii di Tony, appena possono, corrono a vedere Viviani e Totò. E suo papà, appassionato soprattutto di rivista, quando legge che c'è qualcosa di bello, mette il cappotto ai bambini, li prende per mano e li porta a piedi in città. Se c'è un momento indimenticabile per Tony e suo fratello, è il Natale, quando il rito, oltre alla canonica cena, all'apertura dei regali e alla messa, prevede la visione prima in teatro e poi in TV di Natale in casa Cupiello di De Filippo. Quasi un personaggio sacro, da non dimenticarsi mai di mettere nel presepe. Già sono le 9, eccoci. A sera sei prima di andare a letto, che subito si fanno le 9 del giorno dopo. Mamma mia, c'è, fa freddo fuori. Hai voglia, si gela. Io me ne sono accorto stanotte, la casa è gelata, non potevo pigliare calimma. Vieni, ma si mise due maglie di lana, due maglie di là, usciala, sciarpe. I pedalini di lana, cos'è? I pedalini di lana che ho comprato tu. Ti ricordi, cos'è? Stupore negli occhi e cuore che batte fortissimo, staccandosi completamente da tutto il rumore che lo circonda. Tony ascolta con attenzione la voce degli attori e anno dopo anno, senza accorgersene, muove le labbra come a ripetere le battute perché conosce il testo praticamente a memoria. Poi imparerà altri grandi classici, Goldoni e Pirandello per esempio, frequentandoli con la scuola. Ma è in famiglia che comincia la sua vera vocazione. I suoi genitori non spingono per la laurea a tutti i costi, per il lavoro fisso e una vita ordinata. Amano l'arte e desiderano solo che i figli realizzino i loro sogni, che trovino la loro strada senza obblighi, anche se si tratta di strade difficili da percorrere. E non è un caso se il fratello di Tony, Peppe, è diventato voce, autore e volto degli Avion Travel, raffinata formazione pop jazz scoperta dall'intuito fulminante di Caterina Caselli. Anche lui, la musica, più che farla, la mette in scena. Ma per noi partenopei la canzone è sempre un po' teatro, quindi è una cosa che viene abbastanza naturale. Nascere a Napoli, tra lacrime e stupore, significa avere una teatralità che scorre nelle vene, per la bellezza della lingua, per la vivacità dei gesti, ma anche per la confidenza con la morte, che è tipica di questa cultura, una morte che non è mai avvertita come fine di tutto, ma con la quale si convive con ironia. E l'attore è tutto questo, È un folle consapevole che continuamente entra ed esce da un personaggio, entra ed esce da se stesso. Io non mi identifico con i personaggi, mi piace fare i personaggi che sono completamente diversi da me. La mia maschera me la tengo per me. La formazione tecnica non passa necessariamente dallo studio, anzi lo studio la può perfezionare. Ma in un mestiere che celebra la vita come quello dell'attore, la cosa più importante è guardarsi intorno e cogliere le mille sfaccettature dei luoghi, delle persone e delle cose. Tony Servillo è un fiero autodidatta che impara dagli incontri del suo destino più che da corsi e seminari. Ciò che gli viene meglio è immedesimarsi totalmente in modelli di comportamento, linguaggi, modi di parlare, che gli consentono di inventarsi un mondo nuovo quando si apre il sipario. A volte esce di casa senza meta e cammina in direzione di nulla semplicemente per usare gli occhi e sorprendersi. Un uomo anziano, una ricca signora del Vomero, una ragazza giovanissima con un bambino piccolo. Sono solo piccole storie di tutti i giorni. Ma cosa dovrebbe mettere in scena il teatro se non la vita stessa? Da sempre c'è il teatro, quella passione che fin da giovane lo porta ad essere più che una maschera, un burattinaio. Servillo, poco più che adolescente, decide che questa è la sua strada. La famiglia, amante dello spettacolo, lo sostiene, ne è fiera e lo incoraggia, e lui incomincia a dedicarsi completamente al palcoscenico. Sono gli anni 70, un momento intenso in cui i giovani stanno facendo sentire la loro voce e la loro voglia di stravolgere le regole. Le suggestioni sono arrivate dal 68, dall'America di Woodstock, dalla sperimentazione beat e dal clima di fervore che si respira in tutta Europa. Tony, tra manifestazioni, cortei, politicizzazione di tutta la quotidianità, inizia a costruire la sua visione dell'arte e sul teatro che deve essere, prima di tutto, una festa collettiva. Non bisogna mai dimenticare che dietro un grande gesto artistico c'è un atteggiamento che è gratuito, cioè che non guarda subito al mercato, che non guarda subito al profitto, che non guarda subito alla sistemazione. Cioè, non bisogna insegnare ai giovani che l'arte è un prodotto soltanto e che deve andare soltanto sul mercato, cioè, ma ha una sua ragione d'essere interna, anche nella sua gratuità. Servillo si costruisce da solo personalità e professionalità. Per farlo ha a disposizione un patrimonio da mettere al servizio del teatro. Primo fra tutti, la sua cultura d'origine, il mondo della tradizione napoletana con tutto il suo carico di emozione e con tutto il peso della sua storia. Grande maestro, Edoardo De Filippo. L'insegnamento di Filippo è fondamentale, lo si vede nella pratica, nell'atteggiamento con cui leggo i testi, nel modo in cui li scelgo, credo, e nel modo in cui curo la compagnia, in cui organizzo il cast, che è un grande insegnamento di Edoardo. Il secondo riferimento è il mondo dell'avanguardia artistica, con il quale entra in contatto proprio negli anni 70, tra le barricate e le occupazioni. Living theater, performance, ricerca, teatro di strada. Tony è onnivoro, divora tutto quello che gli capita sotto mano. È come una spugna che cerca di raccogliere più acqua possibile per poi essere strizzata e liberarsene al momento opportuno. E naturalmente non disdegna i classici, in particolare Marivaux, Molière e Goldoni, settecenteschi e incredibilmente attuali, accomunati da una tensione che a Servillo sta particolarmente a cuore. Mi sembra di trovare in tutti questi autori un interesse comune nell'indagine che fanno del rapporto tra passione e denaro, amore e interesse, che è una delle tante, ma forse una delle più moderne tensioni, pulsioni che si intrecciano oggi e che raccontano l'oggi. Non ci mette molto il giovane originario di Afragola a diventare un punto di riferimento per il teatro partenopeo. Gli affidano in poco tempo prima ruoli secondari, poi parti da protagonista e infine regie. Lui ci mette tutto se stesso e realizza delle piccole perle, alcune legate alla tradizione più classica, altre nuove e più di nicchia, senza mai perdere di vista che quello dell'attore è prima di tutto un mestiere faticoso. Sul senso di questo mestiere che, contrariamente a quello che certi media vogliono far sembrare, cioè un mestiere di cecchini, di passerelle, eccetera, un mestiere invece che richiede disciplina, studio, approfondimento, rinuncia. Iniziano le tournée nei teatri italiani e i cultori si accorgono della sua mostruosa bravura. Ma alla stima del popolo che va nei palchetti non corrisponde l'apprezzamento altrettanto importante del popolo dei popcorn. La gente che va al cinema non lo conosce e questo, se all'inizio a servirlo non pesa, poi comincia a fargli male. Lui non si sente un intellettuale, non è snob, non vuole distaccarsi dalle persone normali con cui da sempre ha condiviso vita ed esperienze. Nemmeno, proprio per la sua storia, vuole accettare brutte parti in brutte fiction o in film che hanno il solo scopo, al di là di qualsiasi discorso sulla qualità, di fare cassa. Vorrebbe, insomma, arrivare a tutti con semplicità ed eleganza. Una via non facile, un compromesso difficile soprattutto in Italia, dove per il cinema, Cinepanettoni a parte, non è un grande momento. Ma spesso, per trovare quello che si cerca, non bisogna neanche spostarsi. Pure se nella se confessare a pazienne, pazienne ci hanno creduto pure noi. Chiamma roba finestra dire che povero la bascia sulla mente faticavi mancano poche bene. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo a Napoli e c'è un giovane attore che in teatro continua a stupire. Si chiama Tony Servillo ed è una garanzia. Classici e testi inediti come Rasoi e Zingari. Ogni volta è un successo di critica e pubblico. Un pubblico tra l'altro molto esigente perché ben diverso in gusto e sensibilità da quello della televisione e di molto cinema nostrano. Servillo però non si sente particolarmente a suo agio nella nicchia. Il suo approccio al teatro è molto pragmatico. È quello dell'uomo della strada che fonde la cultura con il buon senso. È per questo che quando gli affidano una regia fa fatica a scrivere le didascalie, perché improvvisa, si muove distinto. Ci sono anche i momenti di rielaborazione in cui si siede, avvicina la sedia al tavolo, prende il copione e corregge a matita. Ma più di tutto per lui conta il qui e ora. Non la scientificità, ma la passione. E più della scrittura, l'oralità. Con suo fratello Peppe, frontman degli Avion Travel, ne ha parlato decine di volte. Anche Tony, come me, è appassionato di musica. Io suono, ma lavoro anche con le colonne sonore. E lui tratta i suoi attori come un direttore d'orchestra. Mi dice sempre che nella musica ritrova e assimila i valori tecnici che riguardano un passaggio, una composizione, un'armonizzazione degli insiemi, il rapporto tra un elemento solista e un coro, il ritmo. Servillo in teatro è adorato, ma comincia ad avere la sensazione di essere troppo distante dalla realtà. Ormai sono mesi che gli manca uno stimolo, un progetto nuovo, che sia anche una linfa vitale e soprattutto qualcosa che sia diverso da quello che ha sempre fatto. Ma poi, finalmente, arriva l'occasione del destino. È rappresentata dal copione di un film di un giovane regista napoletano, ancora sconosciuto, ma sul quale girano già molte voci. Nei suoi confronti esiste una sorta di alone epico che incuriosisce. Quel giovane regista si chiama Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino, naso pronunciato, capelli lunghi e basette importanti, è un napoletano doc che nasce nel 1970. Fin da piccolo è piuttosto schivo, discreto, di poche parole. Non è raro che rifiuti di scendere a giocare con gli amici del quartiere perché preferisce starsene in casa ad ascoltare musica, musica italiana degli anni 50 e 60, soprattutto. È in quella musica leggera che a volte viene snobbata che invece c'è il sentimento nudo e puro dell'esistenza. Quelle canzoni ci dicono con semplicità cose profondissime e difficilissime da dire altrimenti. Il raccontare per lui è un'urgenza fin da subito. Gli piace uscire sul balcone, appoggiarsi alla ringhiera, guardare la gente che passa, immaginando cosa stia dietro al volto di un panettiere, perché oggi la cuoca del ristorante si sia vestita tutta elegante, cosa abbia spinto a Napoli il turista americano spaesato, nonostante guida e cartina. Come nei brani che gli piacciono, quello che gli interessa della vita sono le piccole storie, le impercettibili sfumature. Gli occhi impercettibili sfumature, così difficili da dimenticare, così decise da trasformare, sorrisi in lacrime. Impercettibili sfumature, così decise da trasformare, cieli grigi in giornate di sole, il coraggio in mille paure. Paolo Sorrentino si iscrive alla Facoltà di Economia e Commercio alla Federico II di Napoli, ma non ci mette molto ad accorgersi che sta letteralmente sprecando il suo tempo. Invece di studiare per gli esami, scrive. E quando non scrive, è in giro a far leggere agli amici quello che ha scritto, per avere da loro un parere. Mi dava forza anche quando qualcuno mi diceva che non capiva la storia, che dovevo cambiare delle cose. Poi facevo comunque di testa mia, ma quell'opinione in qualche modo la interiorizzavo. Ne tenevo conto senza saperlo. Un giorno Paolo si alza, si prepara la colazione e mette i libri nella borsa. È pronto ad andare a seguire l'ennesima lezione sul PIL. Passa davanti allo specchio, si dà un'occhiata distratta per sincerarsi di essere presentabile, poi prende un bel respiro, appoggia tutto per terra e si siede. Perché sta facendo tutto questo? Per chi, soprattutto? Non c'è nessuno, nemmeno i suoi genitori, che lo obblighi a continuare questo percorso. Da quale momento ha cominciato proprio lui, così testardo e libero, a vivere per inerzia? Non ci pensa molto altro tempo e lascia l'università. Le sue giornate improvvisamente diventano bellissime. Paolo si sveglia con calma, legge il giornale del mattino, esce a fare colazione e osserva quello che lo circonda, a volte prendendo appunti. Poi torna a casa, guarda film e scrive. A mano soprattutto, perché gli dà la sensazione di controllare meglio la scena. Il suo è un progetto serio, di questo vuole fare la sua vita, non è un periodo sabbatico. E infatti inizia a frequentare il Centro Culturale Giovanile di Via Caldieri, dove incontra Maurizio Fiume, regista e cineasta che lo incoraggia concretamente, dandogli consigli e indirizzandolo. Sorrentino fa tutto da solo. Scrive, cerca gli attori, gira cortometraggi. Si offre volontario alla realizzazione del film di Stefano Incerti, Il Verificatore. Ma l'esperienza si rivela disastrosa, non tanto per lui, che ha la possibilità di vivere un vero set, quanto per la produzione. Paolo commette errori a dir poco grossolani e alla fine rischia di far saltare l'intero film quando perde il girato. In quel momento mi sarei ucciso. Tutti che mi chiedevano il girato e io che non lo trovavo, volevo morire. È come se non fosse in grado di controllare le cose che non lo toccano direttamente, come se per fare bene dovesse essere tutto nelle sue mani. E non ha ancora 30 anni, quando un po' per gioco e un po' perché ci spera, invia la sua prima importante sceneggiatura, Dragoncelli di fuoco, al premio Solinas, il più grande premio italiano dedicato alla scrittura per il cinema e ai giovani, come sottolinea il regista Michele Soavi. Queste iniziative sono degli ottimi incentivi per scoprire i nuovi talenti, poi sono tutti ragazzi che vengono dal centro sperimentale, sono comunque appassionati e studiosi di cinema che comunque hanno già fatto alcune prove. Dragoncelli di fuoco è una specie di giallo in chiave surreale gastronomica, il cui titolo viene poi cambiato in Napoletani. Sorrentino arriva in finale e alla serata della premiazione scopre addirittura di essere il vincitore. Sono molto competitivo quando penso di poter vincere. Se devo perdere, dico, ma riesco a raccontarmi, a convincermi che tutto sommato la competizione è una cazzata. Quindi ho un approccio sano alla cosa. Tony Servillo, che è già il grande attore di teatro che non ha mai smesso di essere, è anche lui in sala. E questo ragazzo così napoletano nell'animo e così poco napoletano nei gesti lo incuriosisce moltissimo, come lo incuriosiscono tutte le cose che contengono contraddizioni. Si avvicina ai giurati e prende una copia del testo. Poi si mette in un angolo a leggere. La sceneggiatura è ancora acerba, ma si intuiscono già i semi di un talento che aspetta solo di esplodere. Servillo chiude il piccolo volume e lo riappoggia sul tavolo. guarda l'orologio, se ne va, dimenticandosi per mesi di quel volto, di quel nome. Intanto Paolo Sorrentino continua la sua strada, una strada che lo porterà proprio fino a lui. Il premio Solinas non può che incoraggiare e Paolo, forte di un riconoscimento così prestigioso, manda la sceneggiatura al regista Antonio Capuano, che capisce immediatamente che questo giovane distratto ma bravissimo non bisogna farselo scappare. Gli affida la scrittura di un film a episodi sulla loro grande città in salsa contemporanea. E così, in un raffinato e ironico omaggio, l'oro di Napoli diventa nel 2000 la polvere di Napoli. Non ha successo, ma nell'ambiente la voce continua a spargersi. Sorrentino è una bomba a orologeria che manca solo della scintilla che lo faccia esplodere. Collabora con Placido, scrive per la RAI e soprattutto per se stesso. A guidarlo è puro istinto. Non lo so esattamente cosa prediligo. A un certo punto mi appassiono a degli argomenti, a dei personaggi e se questi resistono a lungo nella mia mente decido di farne un film. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nel 2000 e ci sono due uomini che grazie al loro incontro stanno per sbocciare. Il primo è Tony Servillo, grandissimo attore teatrale che passa con disinvoltura dalla tradizione partenopea all'avanguardia, stimato e celebrato dai frequentatori dei palchetti, ma totalmente sconosciuto al grande pubblico, quello che va al cinema. Il secondo si chiama Paolo Sorrentino ed è un regista esordiente di cui tutti gli addetti ai lavori riconoscono il talento, ma che ancora stenta a esplodere, fino al grande giorno in cui il destino cambierà la vita a entrambi. Tony, umile nonostante l'esperienza, si presenta insieme ad attori alle prime armi ma molto più feroci di lui al casting per il film d'esordio di Paolo. A spingerlo è stata la sua considerazione per quelle che chiama le nuove leve. Sente ormai da molti anni che c'è una leva di registi sotto i 40 anni, mi sembra molto interessante. Deve interpretare il ruolo di Tony Pisapia, un cantante di musica leggera kitsch e convinto di avere il mondo ai suoi piedi. Cinico, spavaldo, egocentrico, che di colpo si scopre da solo in una sala gelida e semivuota. Una parte difficile e una grande sfida per lui che è osannato in teatro ma non va sul grande schermo. Ma Sorrentino riconosce in lui il suo Tony. Immediatamente e come sempre distinto. Sta per nascere l'uomo in più. Io ho sempre voluto cantare. Mi ricordo che da bambino mio padre si incazzava e io cantavo ancora di più. Mi picchiavo e io cantavo ancora di più. Io me li ricordo i microfoni a giraffe. Mi ricordo Mina, Walter Chiara, Alberto Ruba, Alberto si schiattava di risate con me. Mi ricordo tutti i teatri dove mi sono esibito, tutte le canzoni che ho cantato, tutti i camerini, tutti i flash dei fotografi, le dediche sui dischi, gli autografi, le tournée, i ristoranti, le risate, le lacrime degli spettatori. Se Servillo scommette su un giovane napoletano senza grande esperienza, è altrettanto vero che Sorrentino punta tutto su un attore che sembra non avere niente a che fare col cinema. Per entrambi è un rischio enorme. Potrebbero perdersi una grande occasione, forse addirittura l'occasione della vita. Ma tra i due c'è un'empatia che lascia poco scampo alla paura. Un'empatia di cui si accorgono tutti. A me piacciono le persone, fondamentalmente. E questo è un vantaggio, nel senso che persone che trovo estremamente... Non mi interessano né le città, cioè poi ci sono, né i luoghi, né le trame. Sono cose che ovviamente entrano dentro un film, ma che vengono dopo. A me mi interessano delle persone. L'uomo in più concorre a Venezia e piace moltissimo. Nastro d'argento, Chuck d'oro, Grolla d'oro. Ai David di Donatello, Servillo viene candidato come migliore attore protagonista e Sorrentino come miglior regista esordiente e miglior sceneggiatore. È solo l'inizio di un incredibile percorso comune. Come il mare. Dopo L'uomo in più, l'attesa per il nuovo film di Sorrentino comincia a farsi sentire. Paolo, nel 2004, per le conseguenze dell'amore, non ci pensa due volte e non deve neanche fare il casting. Vuole Tony Servillo. I due insieme ridono, correggono le scene, si capiscono al volo. C'è un fortissimo spirito di squadra che fa sì che guardino nella stessa direzione. È una coppia artistica indissolubile e che dissolvere probabilmente costerebbe moltissimo a entrambi. A caso ho fatto qualcosa di... che non va. Forse ho sbagliato. Non me ne sono accorto. Le conseguenze dell'amore viene premiato al Festival di Cannes e ottiene un successo ancora maggiore dell'opera precedente, aggiudicandosi 5 David di Donatello, miglior film, regista, sceneggiatura, attore protagonista e direttore della fotografia, e 3 Nastri d'Argento, migliore attore protagonista, attore non protagonista e direttore della fotografia. Mi sono molto legato alle conseguenze dell'amore, perché poi un film attraversa la vita delle persone perché dura tanto, e quindi i film a cui sono più legato sono anche quelli legati ai periodi più belli della vita, e di conseguenza le conseguenze dell'amore in questo senso è perfetto, perché fa parte di un periodo molto felice, e quindi è anche il Divo. Il Divo è la consacrazione definitiva per entrambi, che arriva nel 2008. Un film in qualche modo epico, che parla della vita di Giulio Andreotti e che quindi attraversa la storia d'Italia. Un film non facile da girare, non facile da interpretare e non facile da scrivere. Abbiamo cominciato le riprese, Paolo ha detto: Tony, ho scritto un pezzo, però lo stanno leggendo gli avvocati. Se Le conseguenze dell'amore trionfa in Italia, Il Divo apre le porte al mondo. Livia, sono gli occhi tuoi pieni che mi hanno folgorato un pomeriggio andato al cimitero del Verano. Si passeggiava e uscessi quel luogo singolare per chiederti in sposa, ti ricordi? Sì, lo so, ti ricordi, gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea. Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa e inconfessabile contraddizione, perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile anche per te. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la responsabilità. Oltre al premio della giuria al Festival di Cannes, viene nominato all'Oscar per Il Trucco e non dà più adito ad alcun dubbio sulla potenza del sodalizio Sorrentino Servillo. Entrambi accomunati dalla voglia di raccontare storie. E non solo. E se dovessi rintracciare delle caratteristiche comuni ai napoletani, non direi né che sono scanzonati né che sono allegri. Una caratteristica molto comune è che sono recitanti. Questo sì. Tony Servillo e Paolo Sorrentino. Un incontro del destino che, come immagina Peppe Servillo, era scritto nel segno. Poi uno le svolte un po' se le deve augurare, le deve cercare. È quello che proviamo a fare quotidianamente. Insieme! Unite, unite, Europe. Sempre più in alto noi. Dammi una mano che prendiamo il volo. L'Europa non è lontana. C'è una canzone italiana per voi. Insieme. Unite, unite. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.